come sotto ricacciato. Sì, vabbè, però voglio dire, non so se è una cosa che le fa male oppure che le fa bene, insomma, tenerlo sempre fermo, ecco. Assolutamente no, Tino, assolutamente no. Perché mondo è mondo, qualsiasi radio valvolare, che sia un amplificatore, che sia una radio, che sia un trasmettitore, va tenuta accesa, sempre in stand-by, e non ti darà mai problemi. Se lo tieni spenta, trovati, io per ben due volte al DAC, ho cambiato le valvole senza usarla, nulla. Mi ricordo è rimasto un anno dentro l'armadio, ben coperta, ben custodita, tutta celofanata. Tanto quando l'ho tolta, l'avevo messa a posto, mi ricordo come oggi, che dava quasi 50 watt. L'ho tirata fuori, l'ho accesa, dava neanche 10 watt. Non lo so, cazzo. Io queste cose qua, sinceramente, non è che... Ne ho avuto uno e l'avevo venduto a Claudio De Gianni, fatto molto contento anche perché era un amplificatore che a me andava in saturazione, ma ti ricordi che avevamo fatto anche delle prove, per le radio più io non andava bene, e invece quella che ho utilizzato lui, io ho visto un incremento, ho detto ma come mai con me non funzionava, con lui sì, ma non funzionava, già andava, solo che andava ed era in separazione. No, da me quando attacca vedeva 9,30, ehi, passa da 9,10 a 9,30, è fortissimo, quella radio è bella, dipende dalle radio che usa, c'è alcune radio vita, c'è che sono un po' inferiori magari a qualche un'altra, però arriva molto bene, assolutamente, basta dirlo a mio padrino, la linea Drake che avevo dato io, gliel'ho data funzionante, l'ha lasciata sempre ferma, è andata ad usarla, non accendeva neanche più, figurati, non aveva più valvole, non so se l'ha sistemata, se l'ha fatta, non ha più valvole. Boh, vedi, adesso per dire che lo sto utilizzando tranquillo, senza stare via, è sempre intorno ai 400. Guarda, dove dica, faremo la prova, dai, vediamo un po'. Ma ora, a me interessava che non portava la radio, capito? Perché non potrei avere una cosa macrodontica, grande, che poi magari non utilizzi, perché a me questo mi ha fatto un bel regalo, basta, non è che me l'ha regalato tranquillamente, cioè, non è lui, non ti preoccupare, no, te lo regalo. Vabbè, se riusciamo a metterlo a posto è bene, se no te lo riporto, perché io sono per parere che è inutile avere magari, che ne so, la Ferrari e non avere la benzina per poterla utilizzare, ecco. No, ma sono d'accordo con te, ti ripeto, io quello l'ho avuto prima di te ed è funzionante, perché le valvole erano già da sostituire, io ne avevo due andanti, buone, e le avevo messe, però non mi ricordo quali sono, se sono quelle davanti o sono quelle dietro, sai come è fatta, no? Cioè ce n'è una singola da parte, che è quella la pilota, e poi ci sono le altre quattro che sono tutte e quattro vicino, non mi ricordo se sono quelle due di davanti, quando tu apri, o quelle due dietro, non lo ricordo. Vicino alla vento, non me lo ricordo, però due mi ricordo che le ho cambiate ed era dal giorno alla notte, perché arrivava anche oltre 350-400, però sempre con due valvole buone e tre magari, perché attenzione, può essere anche la pilota, quella è molto importante, può essere anche una solo che ti sta creando questo problema, non è detto che siano tutte e quattro, tutte e cinque, tutto lì. Comunque devi cambiare, una volta le hai sostituite, allora rifai la prova, come ti ho detto, e vedrai che qualcosa migliora, sicuramente. In caso contrario bisogna darle una sistemata lì alle tensioni della nodica, altro non c'è da fare in collineare, secondo me, a meno che non sia qualche condensatore in perdita, lì è da controllare bene. Avanti Anto, Brumido DG. Ehi, Antonio, sto facendo un nuovo. Andare. Va bene, dai, io... Niente, è una prova che volevo fare, vediamo un po' domani cosa ne esce fuori. gli altri sono della stessa qualità, quelli che ho io, solo che questo è troppo mazzoluntico per dare gli stessi watt, quindi deve rendere di più. No, ma è quello 750-800 le deve dare. No, vabbè, se ti fai un conto sono 5-650 watt le dare, non di più, perché se ogni valvola ti dovrebbe rendere 130 watt, ne ha 5, quindi è così. Sì, sì, 650, 700 deve lavorare bene, perché io mi ricordo quel lineare lì ce l'aveva Bartolomeo Ghisiella, portatore, se lui lo chiamava la vera maniera, e quando lo guardiamo in casa, mi attacco la vera maniera, cazzo, un giorno era a casa sua, giù, nuovo. Cazzo, ho visto lo strumento, mi gioca soltanto, allora il lineare ce l'avevo pochi. E tu la mastra, dimmi vai a Bartolomeo. In cielo sia, poverino. Insomma, minchia, ma sul parlato arrivava a 700 piedi, una bestia, infatti lui la chiamava la vera maniera. Non lo so se è questo, io non l'ho conosciuto. Sinceramente non so se è questo, se Valda l'ha preso da lui o meno. No, non penso. Perché la roba di Bartolomeo Ghisiele ce l'ha tutta, c'ha la linea della Sommercamp, è favolosa, non sono mai riuscito a portargliela via al figlio, figurati, favolosa, bellissima, tacromata, favolosa, c'ha la radio che è grande come il Galaxy, e poi c'ha la colonnina attaccata, lo stesso separata, bellissima, tutta cromata, ma bella, bella veramente, però non l'ha mai data, ce l'ha tutta la roba del padre, quindi penso che abbia anche quello lì, sicuramente, magari non accenderà più, però ce l'ha, no, quello di Bartolomeo era quel modello lì, ma era nuovo, Antonio. Ascolta, scusa un attimino, ma non ve la posso più. Dai, buonanotte a te, Cla. Credimi, non ce la faccio più, mi sto addormentando. Vai, Anto, non dire queste cose. Vai a dormire, tranquillo, tanto mi faccio un altro passaggio continuo, un altro paio di passaggi e poi chiudo anch'io. Vado a vedermi un po' di TV. Ero qua, stavo ancora a metterlo a posto e ne ho approfittato. Vai. Ciao, buonanotte, a domani, Anto. Avanti, ti. Eia, va bene, dai, Anto, voi figurati, no, va a riposarti che sicuramente anche oggi avrei avuto una giornata piena, quindi la stanchezza si fa sentire, anche a me non è che ci voglio stare più di tanto, faccio anch'io giusto due passaggi e poi anch'io vado a riposarmi per domani, che dobbiamo essere sopra il tetto di nuovo. Ciao Anto, ciao, buonanotte, vai tra. Ciao, buon da tutti. Ciao, a domani. E cosa dovete fare? Torre di Rabotto, senti. Ma no, c'è da mettere... Sabato scorso abbiamo piazzato la verticale, però vuole messa un po' in secco, perché è un po' di stazionaria, quindi... Qui domani ne approfitto e gli chiedo un prefisso di accordatore se riesco. E ne ha due accordatori? Sì, ma a me non mi interessa che sia super mastodontico e whatever, l'importante è che funzioni bene e che faccia il suo dovere, ecco, poi non lo... No, mi ha regalato tempo fa anche un bel commutatore di antenna a 6 posti, figurati. No. Ma guarda, sinceramente, non voglio riempirmi quest'angolo di cose, sennò roba vintage e voi lascia perdere. Me lo immagino. Ti mando la foto di cosa c'ho per terra domani mattina in partenza, ma giù in terra. Ne ho 8 per terra, capito? Cosa, com'è, come il mio, quel contattore della Meritron, o quello autocostruito che ha fatto Massimiliano? Allora, quello della Meritron l'ho venduto, questo è, credo, un autocostruito, quello che ha la basetta in legno, tutto bello, ma massiccio, proprio un bel commutatore, questo è serio veramente. Sicuramente l'ha fatto Massimiliano. Sì, l'ha fatto Massimiliano quello dritta. C'ero io quando lo stava facendo. C'ero anche io, era già, era in lavorazione, sì sì, l'ha fatto lui per quello, già lo sai io. Certe cose già le so, perché già ci ho frequentato. Ed era un prototipo che appunto ha voluto Walter per provare, per vedere. E poi invece aveva preso quelli della Metro. No, io quella Metro non l'ho messo dentro la scatola, l'ho conservato, l'ho portato giù, molto ben pulito, ne ho messo tutte le vitine nuove, del coperchio, l'ho tutto pulito anche dentro, tutto pieno di polvere, di salsedine, come all'esterno. E niente, me l'ho conservato. Io ce l'ho a 5 col control box. Però non lo vendo, lo lascio stare perché mi può servire. Sai, io sono un po' lunatico, quindi magari fra qualche anno decido di fare nuovamente qualcosa in più, se non mi ritrovo le cose poi mi si girano le balle. Sì, diciamo che io ho avuto sia il, quello lì, sia che il rotore, quello G450, di Aesu, ma non faccio niente, al momento non mi interessa. Ho ancora un'antenna sul tetto, figurati, una 10-15-20 che mi ha regalato Vanessio, è da montare, però non ho avuto né il tempo né il modo di metterla, quindi non ho, ce l'ho parcheggiata con le quattro frecce lì, quando sarà vediamo. Ricordati che se ti interessa, se lo vuoi al regalo naturalmente, io ho la gabbia già col master pronto, ho la gabbia per il G450 già pronto, per caso devi montare la direttiva, dimmelo, gabbia acciaio inossidabile, fatta dall'amico che conosci tu, capito? Quella non l'ho fatta, ho venduto il rotore, ho venduto le antenne e tutto, però mi sono tenuto la gabbia, già col cuscinetto legge spinta pronto, già tutto pronto, il master già attaccato, il tubo innocenti, sempre fatto dall'amico, anche scalinato, capito? Per salire magari un po' in alto, per montare la verticale. Se ti serve dimmelo, se no ti dietro tutto, perché su mansarda, anzi, l'avete sul tetto ancora. A buttare non si butta niente, no, per buttarlo non vai, al limite poi vediamo cosa ne esce fuori. Non ho intenzione, tra virgolette, di montarlo adesso, perché ho tre cose in testa e sinceramente non la giocare, va, non sta va. Però non lo buttare, può sempre servire. Quello, scusa, se c'è il rotore c'hai anche la gabbia tu. No, io ho dato tutto, ho dato il rotore, ho dato tutto, non è la mia intenzione al momento di, e poi volevo incrementare, quindi capisci a me. Capisci a me, tu capisci a me. Io ho ancora la 5 elementi, sempre la PKW per i 6 metri, su, conservata, dentro in mansarda attualmente, fuori è rimasto il master con la gabbia, e basta. Adesso ho venduto tutto io, tre elementi, rotore, control box, cavo di alimentazione, connettori, tutto dato, non c'è più niente. A 510 ho dato lo stesso, adesso mi è rimasta la monobanda VHF e la B-banda V1. E dico che devo togliere questa settimana, se fa tempo bello così, tolgo anche quella roba, ovviamente lascio solo la Mantova, in modo che poi mi viene anche più facile insomma avere meno lavoro, va? Va bene, no, io casino, cioè io ti ripeto, non ho nel modo, nella maniera di poter fare tutto quello che vorrei, quindi sono accampato qua in salone con Bailame da una parte all'altra, quindi attività non interessa farle al momento, poi se ne parlerà. Ma li dai quest'anno, no? Non lo so, vediamo. Dalle, ti Dalli che Dalli, così sei tranquillo, sereno, poi ti ripeto, fai o non la fai, ma puoi avere da tenere chi ci mette in biasi, nessuno ti rompe l'anima. Io anche se ho tolto tutto, però sai, è sempre un 4.30, è sempre qualcosa che non puoi detenere, quindi me la tengo, anche se non la uso me la tengo, perché serve sempre. Vediamo, vediamo, ne stiamo parlando, adesso vediamo. Vado, io lo stesso, dai, abbandono, vado a fare scarica perché la mattina devo accompagnare il tirino. Guardando come per dire, no, ancora no, dai, aspetta. Però sono alle 5 io in terra, a lui un pochino più tardi ci ha dato. Io sono in pensione, lo sai che mi sono stato stamattina alle 6. Alle 6, alle 8 ero già in giro a fare commissioni, ho fatto un po' l'ufficio a mio cognato, poi sono andato alle poste, che dovevo appunto prelevare un po' di denaro, e invece non mi ritrovavo il PIN. Quindi sono entrato dentro, poi l'avevo fatto lo stesso, poi mi serve il PIN. Non è che ogni volta mi servono soldi. Cazzo, devo andare a fare la fila, no, per un casino che è. Già mi ci ho buttato un'ora, capito? Quindi devo risolvermi questo problema, domani mattina anche io mi devo alzare presto perché apre. Alle 8.20 le poste qua vicino a casa, via Forlanini, c'è già gente, perché poi stanno facendo le prenotazioni online, quindi è sempre meno niente. Quindi voglio risolvere questo problema e poi c'ho altre cosette da fare, quindi anch'io mollo. Ci aggiorniamo domani, ti dai, grazie della compagnia, grazie per avermi scelto anche a te, e ci aggiorniamo domani. Io sempre qua sono, se fino a quando il canale rimane pulito, quando si sporca vuol dire ci sposteremo in un altro, ok? Ciao, buonanotte, saluti a casa. Ahia, va bene, cosa grazie, ma piacere più che altro. Non ti preoccupare, dai, se ci ascolta qua, buonanotte, tante cose belle, salutami in casa, dai. Ciao, domani. Ciao Tino, grazie, buonanotte.